Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che propone notizie, riflessioni e spunti sul nostro presente, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Siamo persuasi che il mondo presente sia profondamente ingiusto, oltre che schiacciato da emergenze ormai strutturali, come il surriscaldamento del clima, l'esaurimento delle risorse naturali, le guerre endemiche, e che occorra dunque ripensare le forme della nostra convivenza. E crediamo che un punto di passaggio necessario sia una nuova collaborazione fra specie, una cooperazione fra esseri viventi nell'ottica della preservazione degli ecosistemi. Perciò osservare l'attualità dal punto di vista degli animali non umani ci consente di avere uno sguardo nuovo, spesso più profondo rispetto a quello cui siamo abituati. Siamo alla puntata numero 651 e parleremo di cantanti che continuano a sbagliare, di squali e di libri, di cinema. Gabriele Palloni proporrà come al solito una ricetta rigorosamente non violenta, ispirata alle notizie della settimana. Mentre la colonna sonora della puntata questa volta è curata da Gianluca Masala. Continua purtroppo sulle spiagge italiane il tour di Jovanotti, il cinquantenne cantante toscano che insiste nel suo viaggio nella penisola a forza di grandi concerti in riva al mare. Il tour, e questo è un paradosso, si presenta con una postura ecologista, potendo vantare in effetti l'appoggio del WWF, storica organizzazione ambientalista, isolatissima però nel giudizio sul senso e sull'impatto del Jova Beach Tour. Del resto è difficile cogliere che cosa possa esserci di ecologista, a parte la raccolta dei rifiuti prodotti e forse l'uso di borracce al posto di bottiglie di plastica, in eventi che sono possibili solo mobilitando proprio in riva al mare un'enorme mole di mezzi per il trasporto dei materiali e sacrificando, è successo anche questo, alberi e piante per fare posto alle strutture, per poi culminare inevitabilmente nell'enorme fragore della musica sparata dagli amplificatori. Chiunque abbia anche una vaga idea della vita selvatica, sulle spiagge, in ambienti marini, non fatica a immaginare la sofferenza e il terrore di uccelli e altri abitanti delle zone verdi, con effetti che fatalmente non sono limitati alle ore del concerto. E non è un caso, allora, se le associazioni ambientaliste e animaliste continuano a contestare il tour di Jovanotti. L'ultima, in ordine di tempo, è l'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, che ha chiesto al ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, di intervenire e impedire i prossimi concerti previsti dal Jova Beach Tour e altri eventi analoghi. Questi eventi, dice ENPA, producono gravi danni agli habitat naturali e anche a carico delle specie selvatiche. Stiamo assistendo, dice ENPA, ad animali che vedono distrutti i propri siti di riproduzione e sosta, giovani uccelli e cuccioli selvatici che muoiono perché privati delle cure parentali, tagli di alberi e siepi, lavori nelle spiagge che compromettono gli ecosistemi dunali e poi il grande e fragoroso disturbo causato dalla musica sparata ad alto volume. Fra le tappe del Jova Beach Party in programma quest'estate ce n'è una particolarmente problematica, a Vasto, in Abruzzo, dove sono previsti due appuntamenti, il 19 e il 20 agosto. 3 anni fa, nel 2019, il concerto saltò per ragioni di sicurezza valutate dalla prefettura, ma al culmine di contestazioni da parte del movimento animalista e ambientalista. Contestazioni che avevano al centro dell'attenzione la fragile esistenza del fratino, un uccello che vive in riva al mare, in habitat sempre più messi sotto pressione. Jovanotti 3 anni fa alla fine fu costretto a rinunciare al concerto, ma è tornato alla carica e sarà atteso a Vasto da forti contestazioni. L'IPU, Stazione Ornitologica Abruzzese, Arcivasto, Gruppo Fratino Vasto, hanno anche presentato osservazioni sulla procedura di valutazione d'inchiesta ambientale, cioè un atto formale nella speranza di fermare il concerto. Per queste associazioni il Jova Beach Party è una iniziativa insostenibile, perché le spiagge non sono cumuli di sabbia inerte, ma luoghi dove vivono piante e animali, spesso rarissimi. Se poi, dicono ancora le associazioni, per fare un concerto si tomba e si rende calpestabile un corso d'acqua naturale come fosso marino, si infrange non solo qualsiasi principio basilare di ecologia, ma a nostro avviso anche quelli relativi alla prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità. Che cosa accadrebbe, si chiedono le associazioni, in caso di nubifragio? A questo punto, auspicando che un nubifragio a Vasto non ci sia, possiamo solo sperare che Jovanotti esca dal suo microcosmo e dal suo ecologismo immaginario e rinunci a questo e altri concerti, e anziché li sposti, magari accanto a discariche, siti e fabbriche abbandonate, ecomostri e strade inutili, allora sì che darebbe un contributo alla tutela dei nostri ecosistemi e a generare qualità ambientale anziché degrado. You take drugs to psych your mind. You take wine to forget about time. You create a world of your own where the truth will never be known. Well, brother, don't you know now that you're killing yourself and nobody else? Why don't you quit it now? Yeah, why don't you quit it now? Quit it now. I said you better quit it now. Cloud nine. No responsibility. You're floating in space, feeling good. Running away will never make you a man, 'cause reality is gonna bring you down. Well, bro, il 14 luglio scorso si è celebrata la giornata mondiale dello squalo, ma per questo magnifico abitante di mari e oceani non ci sono buone notizie. Nel solo Mediterraneo oltre il 50% delle specie di squali e razze è minacciato di estinzione. L'allarme viene dal WWF, che, dimenticato Jovanotti, ricorda come alla salute di questi predatori sia legato il benessere di mari e oceani. Se allarghiamo lo sguardo oltre il Mediterraneo, sullo scenario globale, secondo il WWF il 36% delle oltre 1200 specie di squali e razze che vivono nei mari mondiali è in pericolo di estinzione. Gli squali sono una delle specie più antiche del pianeta, con documenti fossili che provano la loro presenza nei nostri oceani almeno 420 milioni di anni fa. Gli squali moderni sono quindi contemporanei dei dinosauri e sono sopravvissuti a tanti cambiamenti, ma oggi devono affrontare una combinazione di minacce che causano l'uccisione di circa 100 milioni di esemplari ogni anno, una cifra enorme. Le cause di questa mattanza sono la pesca eccessiva, ovviamente, e anche quella accidentale, e poi l'inquinamento. E come retroterra la domanda mondiale di prodotti alimentari come la zuppa di pinne di squalo o monili con i denti di squalo, cose l'una e l'altra del tutto superflue. Attorno agli squali, dobbiamo dire anche questo, si sono formate leggende che ne hanno fatto un simbolo di ferocia e una fonte di pericolo. La giornata mondiale dedicata a questo animale vuole appunto riportare tutto alla realtà e favorire una conoscenza autentica sulla natura di questo animale e una consapevolezza, piuttosto, delle minacce che incombono sul futuro di questa specie. Insomma, non c'è da avere paura degli squali, ma di chi ne minaccia l'esistenza. A proposito di squali, è proprio a loro che si è ispirato il nostro Gabriele Palloni per la ricetta della settimana. Una ricetta in apparenza ovvia. Si parla delle trenette al pesto, ma scommettiamo che per molti sarà una sorpresa scoprire come si prepara davvero questo piatto così gustoso e così estivo. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Alzi la mano chi, parlando di squali, non pensa al film che ha reso celebre in tutto il mondo Spielberg, spingendoci a verificare la presenza di una pinna gigante a pelo dell'acqua prima di fare il bagno in mare. Pare che il regista sia ghiotto di un piatto tipico italiano, e come dargli torto del resto. E nel caso si volesse cimentare a dirigere i lavori in cucina, ecco qua la ricetta in versione 100% vegetale delle trenette al pesto. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di trenette, una patata, 100 g di fagiolini, una generosa manciata di foglie di basilico ligure, 2 spicchi di aglio, un pizzico di sale grosso, 25 g di farina di ceci, 100 ml di acqua, il succo di mezzo limone, un cucchiaio di lievito alimentare a scaglie, una manciata di pinoli freschi, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per prima cosa stemperate la farina di ceci con l'acqua, aggiungete il succo di limone, il lievito alimentare, un cucchiaio di olio extravergine, sale e pepe. Fate cuocere in una casseruola con un filo di olio, mescolando fino a quando inizierà ad addensarsi, quindi togliete dal fuoco e fate raffreddare in un contenitore di vetro. A parte, tritate il basilico, l'aglio, il sale grosso e i pinoli. Se lo avete a disposizione, utilizzando un mortaio di marmo. Altrimenti chiuderemo un occhio concedendo l'ausilio di un frullatore. Aggiungete l'olio extravergine poco alla volta e infine la crema di ceci che si sarà raffreddata e solidificata. Aggiungete l'olio sempre mescolando fino ad ottenere un pesto ben cremoso. Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua leggermente salata e nel frattempo sbucciate la patata e tagliatela a cubetti, mentre i fagiolini andranno puliti e tagliati a tocchetti. Versate le verdure nell'acqua assieme alle trenette. Scolatele al dente e condite con il pesto, aggiungendo, se necessario, un po' di acqua di cottura. Again.

di cui il regista ricorda i nomi uno per uno. Una squadra di asini che ha filtrato il suo sguardo sul mondo. Skolimowski, che ha 84 anni, ha spiegato di aver voluto lanciare un preciso messaggio animalista attraverso il suo film. Io stesso, ha detto, ho ridotto il consumo di carne dell'80% e mi auguro che il film possa contribuire alla battaglia contro la crudeltà verso gli animali. Non dobbiamo trattarli come oggetti, ma come esseri viventi. Sono nostri fratelli. Al più presto andremo al cinema e recensiremo Io, e magari vedremo Skolimowski passare dall'80 al 100% di riduzione dei consumi di carne e altre proteine animali. Sarebbe più coerente col messaggio animalista del film e non è nemmeno troppo difficile. Una buona notizia. Si chiamano Undi, Will, Mike, Dustin, Lucas, Robin, Max e Nancy e sono 8 maialini salvati dalla sperimentazione dall'Associazione Vita da Cani di Milano. Sono piccoli, hanno gli occhi celesti, un naso lucido, il corpo candido, delicatamente rosa e sono usciti da un laboratorio di ricerca. Questi maialini, spiega Sara D'Angelo, presidente dell'Associazione Vita da Cani, hanno potuto salvarsi grazie a una serie di coincidenze. Come sempre accade quando ritiriamo gli animali dai laboratori. Qualcuno all'interno di queste strutture permette che ciò avvenga. Un veterinario, un dirigente, uno stabularista, che si oppongono a che la storia degli animali finisca nel sangue, con la morte, nel silenzio. Il piccolo miracolo di questi magnifici 8 maialini, dice ancora Sara, è avvenuto anche grazie alla preziosa collaborazione della Collina dei Conigli, che si occupa del recupero delle cavie di laboratorio, e la convinzione della veterinaria del centro di ricerca. Lunga vita a Undi, Will, Mike, Dustin, Lucas, Robin, Max e Nancy. Questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Anna Granata, Valentina Reggioli, Valentina Barotti, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.